ostinato seguire la vaglia di mia impresa, ostinato seguire la vaglia di mia impresa, fammi amor val voi offesa, se io dovessi me morire, ostinato la magna anima mia impresa, impresa, fammi ciel, fammi fortuna, bene o male, come a te piace, né piacer né ingiuria alcuna, per avvili mi far più audace, che l'altro più non può fuggire, ostinato a seguire la magnanima mia impresa, la magnanima mia impresa, impresa. Yeah.